può essere che un viaggio nel tempo diventi una fiaba. Nelle fiabe, c'era una volta, si aprono antri scuri che svelano magie e segreti prodigiosi. Nelle fiabe, gli antri si aprono lentamente e così, dal cortile, si apre uno spazio sotto di noi. Una scala si perde nel buio e ci porta in un tempo più antico. Andrea tutta cava sotto i suoi piedi, un intricato e affascinante sistema di stanzoni e camminamenti sotterranei che spesso si collegano tra loro, la attraversa sottoterra. Un vero e proprio alveare di pietra, fatto di cunicoli stretti e ambienti grandi come chiese. Qui vivono le tracce di una storia centenaria, nascosta e stratificata nel buio e nel silenzio. Scendiamo in uno di questi stanzoni. Siamo oltre 2 metri sotto il livello stradale. Sembra un magazzino a un primo sguardo, ma un magazzino non è. La volta a sesto acuto, uno scalone di pietra, alte finestre e stipiti di pregio. Lo sguardo corre lungo le pareti in penombra, si distinguono anime di finestre, oggi murate. Siamo dentro un edificio medioevale del XII o XIII secolo e non ci sono dubbi, questo era uno spazio pensato per essere fuori dalla terra. Era accaduto che intorno al XVI secolo ad Andrea erano aumentati a dismisura i cantieri di nuovi palazzi signorili, un vero e proprio boom edilizio durante il quale le famiglie benestanti avevano avviato la costruzione di palazzi come quello che ospita Borgo Murgia. I palazzi non erano però stati edificati da zero. I cantieri erano sorti nello spazio urbano preesistente, fatto di piccoli edifici stretti, medievali, alternati a rari slarghi. Chi voleva costruire un nuovo e più sontuoso palazzo nel XVI secolo acquistava gli spazi e su quelli costruiva, inglobando vani o edificandoci sopra. Era in fondo un modo di contenere i costi, un'altra prova dell'innata parsimonia che si vede anche nei muri di questa città. Quello in cui siamo, quindi, si svela per quello che è. Un edificio del Medioevo che tra il 1500 e il 1600, forse inconsapevolmente, era stato fagocitato, inglobato ed asservito al palazzotto come magazzino o deposito e così usato durante gli ultimi secoli. Che cosa sia stato prima di allora non si sa con certezza. L'idea più suggestiva è che qui vi fossero i monaci. Le finestre sono strette, strette e alte. E terminano con un arco a tutto sesto che impediva dall'esterno la vista degli spazi interni, proprio come le finestre in uso nei luoghi di culto. Non è poi un'idea così peregrina se si pensa che in linea d'aria sorgeva negli stessi secoli e sullo stesso livello stradale una chiesa che oggi è interrata e inglobata nella chiesa cattedrale e le funge da cripta, ma che allora, prima dell'anno 1000, era fuori terra. Siamo dentro il Medioevo a guardarci intorno. Le ombre proiettano profili di monaci incappucciati che girano su un piano stradale che oggi è nel ventre di Andrea. E quasi risale dalle pareti una sacralità antica, un ritmo lento di passi e di preghiera.